12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi proveremo a capire come intraprendere la carriera di acconciatore, una professione che permette a chi la intraprende di esprimere creatività e capacità imprenditoriali. Infatti, ospite di questa puntata sarà Melissa, giovane acconciatrice che dagli studi, passando per il lavoro dipendente, oggi gestisce proprio un suo salone. Andando un po' alla ricerca di cosa significhi svolgere la professione di acconciatore, abbiamo capito che questo mestiere richiede un aggiornamento costante, sia in merito ai nuovi prodotti tricologici, sia in merito alle tendenze della moda e ai desideri dei clienti. Quindi si tratta di un mestiere che richiede di essere sempre attenti ai nuovi prodotti offerti dal mercato e alle diverse tecniche e metodi di lavoro. Giusto per fare un esempio, in merito alle nuove metodologie di lavoro abbiamo scoperto che anche in questa professione è importantissima la capacità di utilizzare il computer, che permette infatti di gestire programmi di elaborazione grafica per simulazione di hair styling. A livello normativo, dal 2005 è in vigore una legge che disciplina l'attività di acconciatore e che ha lo scopo di favorire la nascita di professionisti qualificati tramite una completa rivisitazione della formazione necessaria per ottenere l'abilitazione professionale esistente fino ad allora. La legge infatti ha introdotto l'obbligatorietà di conseguire un'apposita abilitazione per poter esercitare l'attività professionale. La possibilità di ottenere la qualifica di acconciatore in 3 anni, potendo scegliere tra percorsi alternativi che prevedono periodi differenti di formazione e inserimento lavorativo. La possibilità per le imprese di acconciatura di avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso di un'abilitazione professionale. E infine la licenza alla vendita di prodotti cosmetici inerenti al trattamento dei capelli, ovviamente da parte di professionisti qualificati. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale sulla professione dell'acconciatore, proviamo a capire meglio come funziona questo settore lavorativo, cosa significa esattamente svolgere questo mestiere e quali sono le opportunità che offre, dando il benvenuto alla nostra ospite. Ciao Melissa, benvenuta a 12 minuti. Ciao. Melissa, ci racconti chi sei e di cosa ti occupi nella vita? Allora, io lavoro da quasi 20 anni nel settore della parrucchiera, della conciatura e da pochi anni sono anche titolare di un negozio. Scusami Melissa, prego. Sì. Ho sempre svolto questa attività, ho iniziato facendo dei corsi, dopo un'accademia privata. E lavorando contemporaneamente su dei vari saloni, ne ho cambiati abbastanza perché ai tempi era duro lavorare in modo onesto e corretto, diciamo. Non ti mettevano in regola, ti sottopagavano e facevano fatica a istruirti in salone. Ecco, Melissa, scusami se ti interrompo. Allora, prima hai accennato appunto al tuo percorso di studi, no? Sicuramente appunto il primo passo da fare per arrivare a svolgere la professione di acconciatore appunto è la formazione. Qual è esattamente il percorso di studi che bisogna intraprendere? Perché c'è anche una legge appunto dal 2005, mi pare, che appunto introduce una qualifica proprio professionale, no? Di acconciatore. Sì, adesso c'è appunto una scuola professionale, fanno d'obbligo, diciamo, perché fino a 16 anni non si può più lavorare, quando invece una volta si poteva lavorare anche prima. E c'è questa scuola professionale e ce ne sono abbastanza anche qui nella zona. E poi ci sono anche scuole private, accademie private o corsi privati che uno sceglie di fare a piacimento suo, a gusto suo. Ecco Melissa, quali sono le competenze che un acconciatore deve possedere e quindi su cosa un giovane che volesse intraprendere questa professione deve puntare? Insomma, cosa bisogna sapere per fare questo mestiere? Oddio, sapere. Bisogna sapere prima di tutto se veramente piace, perché è una un mestiere che devi amarlo per me, perché altrimenti è dura stare in negozio. Devi saper stare con la gente, saper rispettare le persone, avere pazienza, avere modo, avere gusto, buon gusto anche nel porsi nelle persone, sia esteticamente che nei modi di fare, rispettandole tutto, perché comunque hai un contatto molto intimo con una cliente nel settore dei capelli, e la sua immagine, il suo essere, quello con cui stai lavorando. Quindi sicuramente insomma una diversità e anche una varietà, ecco, di competenze da mettere in gioco, sia da quelle tecniche a quelle poi più relazionali e personali, proprio di rapporto con la clientela. Sì, no, infatti dopo deve avere appunto delle competenze tecniche che acquisisce a scuola, con delle basi molto approfondite da quello che vedo, e poi in salone guardando molto i tuoi colleghi e la tua titolare, applicandoti prima in modo visivo, rubando con gli occhi il lavoro, e poi facendo più pratica possibile. Ecco Melissa, ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale, poi torniamo in studio e continuiamo appunto a parlare della professione di acconciatore. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand. Minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo parlando della professione di acconciatore. Ospite qui con noi c'è Melissa, giovane acconciatrice titolare di un salone, con la quale nella prima parte della puntata abbiamo capito qual è il percorso formativo da intraprendere per svolgere questo mestiere e quali sono le competenze che bisogna possedere. Melissa, dagli studi al lavoro, come si può intraprendere in concreto questa carriera? Allora, negli studi appunto bisogna applicarsi per il più possibile nella parte di laboratorio per avere più sicurezze per se stessi, per muoversi meglio poi quando si va in salone. Quando ci si presenta in un salone per intraprendere questo lavoro, per me bisogna farsi vedere abbastanza svegli, diciamo, intraprendenti, senza troppo strafare, e mettersi in gioco il più possibile giorno per giorno, facendo tante prove. Comunque bisogna tanto mettersi in pratica con questo lavoro. Per me l'unica cosa è proprio far tanta manualità e quindi avere sicurezza e tutto. E in salone farsi vedere appunto curiosi di questo lavoro, fare domande, stare sempre a osservare, a vedere, a provare, a chiedere anche alla titolare stessa, perché aiuta a darti delle sicurezze, a toglierti certi limiti che magari non vedi quando si è all'inizio di questo lavoro. Certo, ma Melissa, io immagino, non so, un ragazzo che sta frequentando la scuola appunto per acconciatori, io immagino che già durante il percorso scolastico, no, ci sia la possibilità di fare delle esperienze pratiche, fanno magari tramite... Stage, fanno degli stage, che tanti sottovalutano, invece sono molto importanti per me, perché ti danno una bella spolverata del lavoro, un bel... sì, un purpurì del lavoro, ti danno un'idea di come, di quello che sarà il tuo futuro, dove puoi comunque vedere tante cose, apprendere tante cose. Sì, perché immagino che comunque questo è un lavoro dove sicuramente la teoria è importante, però poi quello che conta è proprio la manualità, no? Quindi riuscire a fare pratica proprio, giusto? Sì, ci vuole una giusta teoria, delle giuste regole, perché ci si muove solo quando si ha delle regole. Quando hai delle buone regole, sai muoverti appunto in modo teorico, puoi muoversi bene anche in modo pratico, però tutto fa insieme, tutto quello là sì. Infatti anche le scuole adesso approfondiscono molto più teorie di una volta, ed è bene, per me è molto utile per i ragazzi. Melissa, io ti ringrazio per essere grazie stata qui con noi 12 minuti e per tutti i preziosi consigli. Grazie a voi. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse intraprendere questa carriera e quindi ottenere l'abilitazione alla professione di acconciatore, vi segnalo il sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del quale, alla sezione formazione, si può trovare l'elenco degli enti di formazione accreditati aggiornato a maggio 2013 e indicazioni in merito all'accesso ai corsi. Si possono ottenere informazioni in merito alla professione rivolgendosi anche alle associazioni di categoria come CNA, Federacconciatori e Confartigianato Acconciatori. Vi segnalo quindi i link utili www.confartigianato.it/acconciatori e www.cna.it/federacconciatori. Per chi volesse toccare con mano questo mondo, una possibilità è visitare le diverse fiere di settore in cui i professionisti si confrontano sulle ultime tendenze in fatto di moda capelli. Tra queste vi segnalo Cosmo Prof di Bologna, la prossima edizione sarà ad aprile 2014, che è uno degli eventi internazionali più importanti nel settore della bellezza professionale. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.cosmoprof.it. Siamo giunti al termine di questa puntata e prima di salutarvi, piccola anticipazione sulla prossima, che sarà dedicata alla professione di assistente di volo. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.